La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Diceva Franco Basaglia, forse il più rivoluzionario degli psichiatri italiani, che da vicino nessuno è normale. Basaglia sapeva che una persona che soffre di disturbi psichici non deve essere considerata diversa e soprattutto pericolosa, non deve essere ancora isolata. E poi delle persone che non trovano una collocazione sociale perché non hanno famiglia, non hanno amici, non hanno denaro, non hanno lavoro, e quindi queste persone restano così internate socialmente, colpevoli soltanto per essere state malate. Insomma. Quindi capisci la difficoltà che i tecnici di Santa Maria Pietà hanno di mettere fuori queste persone che non sono accolte da nessuno. E quindi da questo avviene l'importanza della parola territorio. Beh, il territorio è una grande rete istituzionale in cui ci sono delle varie istituzioni e tutti devono essere promotori di salute e non di malattia. Allora cominciamo la scuola, l'università, la famiglia. Un progetto che andava sostenuto con un serio impegno anche economico. Invece l'ambito della psichiatria in Italia, soprattutto quella pubblica, ha finito per impoverirsi. E così chi ha i soldi o le possibilità oggi può seguire un buon percorso di cura e di recupero. Per gli altri spesso il percorso è quello dell'essere sedati con psicofarmaci e chiusi in casa o in strutture che faticano a dirsi riabilitative. Il peso della cura, della gestione, finisce spesso sulle spalle delle famiglie e talvolta il dolore della malattia di un proprio caro genera vergogna. E in questa solitudine si percorre un vero girone infernale. Spesso si determinano situazioni tragiche, come ci racconta ogni giorno la cronaca. E dunque quella di stasera è una storia che toccherà proprio questi temi, ma che avrà un lieto fine. Non arriva certo il principe azzurro in questa storia, ma arrivano tante persone e tante idee, e soprattutto tanti abbracci e parole. Perché spesso, in questi casi, la solitudine è una cattiva compagna. La storia di questa sera è la storia di Ughetta Radice Fossati e di sua figlia. E la storia anche di tantissime altre persone. Il progetto Itaca è un'associazione che è nata a Milano e poi, quando si è sviluppata anche in altre città, è stata costituita anche una fondazione nazionale. È nata quindi a Milano nel 99, fondata da un gruppo di persone, siamo stati 7 soci fondatori, che tutti avevamo avuto nel nostro percorso di vita l'esperienza di disturbi mentali. Sì, alcuni l'avevano vissuto proprio personalmente, quindi come pazienti, altri come familiari, come appunto io, che ho avuto una figlia che si è ammalata molto giovane, e anche persone però che erano semplicemente sensibili ai problemi sociali, insomma, che avevano capito quanto questo problema delle malattie mentali fosse veramente un trauma nella vita delle persone. Perché quindi, di fatto, è trasversale e stravolge completamente la vita anche di chi è vicino a una persona che viene colpita da... Sì, diciamo, il fatto, ci siamo tutti accorti, proprio per questo abbiamo poi voluto associarci, creare un'associazione, fare qualcosa in questo settore, perché ci siamo accorti come è proprio in questo campo c'è pochissima informazione, e quindi questo porta un grandissimo danno alla vita delle persone che si ammalano. Perché mentre in altri settori della salute almeno una persona, anche se non è informata, sa da chi a chi chiedere, diciamo, proprio questo l'ho vissuto io, che quando mia figlia si è ammalata, ero un insegnante fra l'altro, e qui avevo 4 figli adolescenti, pensavo di sapere tutto dei problemi, insomma tutto, essere abbastanza al corrente dei problemi degli adolescenti, e invece mi sono accorta che ho perso tantissimo tempo per capire che cosa stava succedendo nella mia famiglia, che cosa stava succedendo a questa figlia, quindi è passato tanto tempo prima di capire di che cosa si trattasse, e poi ancora altro tempo prima di riuscire a affrontare questo problema nel modo migliore. E soprattutto, appunto, mentre in altri settori, in altri problemi della vita, anche se io non ero informato, sapevo a chi chiedere, invece in questo campo non sapevo proprio a chi chiedere nessuno, ma dato un orientamento giusto subito. E quindi proprio per questo abbiamo il primo obiettivo di questa associazione che abbiamo fondato è stato proprio dare informazione. Infatti la prima iniziativa è stato un numero verde, una linea d'ascolto per accogliere i bisogni delle persone per dare orientamento e informazioni. C'è molto pregiudizio anche sul tema della malattia mentale, cioè lei da madre l'ha vissuto questo? Dunque, certamente questo fatto di non essere informato deriva proprio anche dal pregiudizio, perché c'è molta vergogna, quindi se ne parla poco, si tende a non parlarne, c'è molto il pregiudizio dell'incurabilità, diciamo anche nella... proprio l'esperienza della mia famiglia, in tutte le generazioni della mia famiglia c'era stato qualcuno che era stato male, eppure io non ne sapevo niente. Forse un po' sì per la vergogna, anche perché non si ama parlare di questo tipo di problemi, però anche con l'idea che non si potesse fare tanto. Quindi proprio questo pregiudizio dell'incurabilità che può essere giustificato perché in fondo in questo settore della salute fino a 30-40 anni fa c'erano veramente poche possibilità di cura scientifica. Però questo è cambiato tantissimo negli ultimi anni, invece il pregiudizio permane. Perché secondo lei? Diciamo il pregiudizio permane... perché in questo settore, proprio a causa della vergogna, della paura, non sono nate per esempio delle grandi associazioni. Il progetto Itaca, che pure è ancora un'associazione molto piccola, è forse l'associazione in Italia più attiva, più conosciuta in questo settore, perché sono nate solo piccole iniziative fatte da persone che si mettono insieme per aiutarsi a vicenda, ma non sono nate grandi associazioni forti che possono avere un forte impatto all'esterno, come grandi associazioni nazionali sono nate per gli altri settori della salute. Invece in questo settore ancora non si sono mosse le forze più importanti della società, come per l'oncologia si sono mossi tutti gli imprenditori, le grandi aziende, i professionisti, diciamo tutte le forze più potenti della società si sono mosse in un settore dove si pensava di poter fare, di poter veramente cambiare le cose. Invece in questo settore non c'è stato, diciamo 30 anni fa, 50 anni fa l'oncologia e la psichiatria erano allo stesso punto e vediamo i passi che si è fatto nell'oncologia. E poi la psichiatria ha cominciato, come dire, a chiudere, come dicono alcuni, il paziente tra le mura di una gabbia invisibile attraverso i farmaci, mentre prima si spostavano le persone che avevano dei problemi o una malattia psichiatrica. Beh, diciamo, proprio per questo motivo, anche se i grandi istituti psichiatrici sono stati chiusi, per fortuna, adesso non da tantissimo tempo, perché nonostante la legge fosse del 78, però alla fine gli istituti sono stati chiusi alla fine del secolo scorso solamente, però tantissime persone sono ancora chiuse in casa, quindi non diciamo forse non c'è neanche in questo settore da parte dei professionisti, da parte delle istituzioni, della regione, insomma del ministero, quella voglia di eccellenza che c'è in altri settori. L'Italia proprio brilla per l'eccellenza delle sue istituzioni pubbliche per la salute. In tutti i settori ci sono dei grandi centri di eccellenza, invece nella psichiatria no, nella psichiatria ancora si va soprattutto a contenere i sintomi, ma non si arriva fino a restituire la persona ad una buona qualità di vita. E invece con sua figlia lei cosa ha fatto? Mi scusi se mi permetto. No, diciamo. diciamo, allora, la nostra fortuna è stata che mia figlia e quindi anche tutta la nostra famiglia non si è vergognata. Mia figlia proprio ha sempre parlato chiaramente con tutti i suoi amici, con i familiari, dei suoi problemi, dei suoi sintomi, quindi anche noi, fratelli, abbiamo anche la fortuna di essere una famiglia abbastanza numerosa, quindi tanti cugini, quindi anche tanti amici, e quindi non ha avuto quell'isolamento forse che molte persone subiscono con questi disturbi. E quindi proprio per questo noi abbiamo detto bisogna parlarne, bisogna fare qualcosa, e da qui è nata l'idea dell'associazione. E sicuramente l'associazione ha dato tantissimo, prima di tutto alla nostra famiglia. Diciamo, un po' il segreto dell'associazione è che chi si avvicina chiedendo aiuto alla fine si accorge anche che dà aiuto all'associazione, diventa una risorsa per l'associazione. Noi valorizziamo molto l'esperienza di chi vive direttamente il problema, sia come paziente che come familiare. Infatti proprio da questa grande associazione americana NAMI, National Alliance on Mental Illness, abbiamo copiato questa formula dell'aiuto tra pari e anche della formazione tra pari, quindi corsi per familiari in cui i familiari stessi preparati sono gli insegnanti. Il principio espresso da Basaglia, il tema su cui tante volte si torna, ecco che si trasforma in progetto. Arrivano da ogni parte per parlare del loro problema. Spesso, ci racconta la signora Radice Fossati, ci si ritrova davanti madri e padri che per 20 anni non hanno parlato con nessuno della malattia mentale del figlio. Di questo torniamo a parlare tra pochissimo. La prima volta. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di stasera è dunque una puntata che affronta, come abbiamo già fatto altre volte, il tema della malattia. In questo caso parliamo di malattia mentale e di come questo dolore entri nella vita di una persona e della sua famiglia. Il più grande tra i pregiudizi che accompagnano questo tema è che da un disturbo mentale non si possa guarire o si possa guarire con grandissima difficoltà. Nel 2030 i disturbi mentali saranno le malattie più frequenti al mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili, il 38,2% degli abitanti del vecchio continente, quindi circa 165 milioni di persone su una popolazione di 514 milioni, soffre di disturbi psichici. Dei malati, appena 1 su 3 riceve farmaci o altre terapie. Per 2 su 3 nessuna cura. Per questo abbiamo scelto di dedicare una puntata a questo argomento, perché le cose cambino e forse le cose cambiano anche grazie a progetti e idee come quelli della signora Radice Fossati. Corsi per le persone che hanno il problema, quindi corsi per pazienti. Noi tendiamo a non chiamarli pazienti, no, ma a chiamarli persone che hanno una malattia. Ecco, anche in questi corsi gli insegnanti sono persone che hanno l'esperienza della malattia, e il progetto più nuovo che inizierà quest'anno è un corso per gli operatori della psichiatria in cui gli insegnanti sono familiari e pazienti, quindi con il principio che chi vive quotidianamente direttamente un problema acquista anche una consapevolezza per gestirlo. E quindi può insegnare qualcosa ai professionisti che certamente hanno la competenza della loro professionalità, però non hanno forse invece questa esperienza del viverlo quotidianamente. Però a queste persone fate prima, come diceva, un corso, cioè le strutturate in modo tale che possano sostenere anche, diciamo, emotivamente. Infatti, quello che ci è piaciuto di questa associazione americana è che ha creato nel tempo, appunto negli Stati Uniti è da 20 anni che fanno questi corsi, e quindi hanno messo a punto un manuale, e la fondazione Progetto Itaca ha fatto un contatto con l'associazione americana per tradurre in italiano questo manuale e per portare questi corsi in Italia, e attraverso questo manuale, appunto, e andando proprio negli Stati Uniti a fare un corso specifico, dei familiari e dei pazienti possono essere preparati a diventare insegnanti e vengono selezionati, e poi possono, e da ogni corso escono nuovi insegnanti, per cui questi corsi noi li stiamo moltiplicando in tutte le città dove è stata costituita l'associazione. Adesso sono 11 città in Italia dove c'è un'associazione Progetto Itaca e dove si avviano questi progetti. E quante sono le persone con le quali avete a che fare? Cioè, avete delle stime, dei numeri di questo progetto? Dunque, di questo progetto specifico, allora, il corso famiglia per familiari l'abbiamo iniziato nel 2009 e ormai l'hanno seguito in Italia circa 1000 persone. C'è una grandissima affluenza perché c'è un grandissimo bisogno di sapere di più, cioè un familiare è una risorsa, deve essere una risorsa anche per le persone che hanno questo problema, mentre addirittura passa quasi l'idea che il familiare possa indurre il disturbo. Anche questo è un grosso pregiudizio. E ma quindi questo, anche come professionisti, avete fatto? Come certe... avete Dico, questo è un grosso pregiudizio che in effetti resta proprio è tuttora e saldo. Si appeggia proprio nella psichiatria, nel senso tante volte si ha l'impressione che il professionista voglia allontanare i familiari dalla persona malata, mentre come per tutte le altre malattie una persona malata che ha vicino dei familiari preparati, abbastanza sereni, sta molto meglio di una persona malata che è sola. Anche se in una struttura pubblica appoggiata da operatori. E quindi il nostro principio è proprio che i familiari sono una risorsa, devono essere però aiutati e informati per diventare veramente una risorsa. E questo lo verifichiamo proprio in questi corsi, come tante volte aiutando il familiare, anche semplicemente mettendolo nella condizione di poter parlare con qualcuno. Alcune volte ci capitano dei familiari che non hanno mai parlato di questo loro problema, non ne hanno parlato neanche in famiglia. Pazzesco. E quindi vediamo che invece da questa condivisione con questo corso, in cui c'è una parte proprio di informazioni scientifiche anche date in modo semplice perché non vengono date da professioniste ma da familiari guidati da un manuale, quindi da testi scritti che si leggono insieme. E proprio questo, e poi il momento invece, alcuni incontri sono più sullo scambio di esperienze, anche sul tecniche di come comunicare in famiglia, come comunicare fra familiari che tante volte vivono in un modo diverso lo stesso problema, e quindi invece di aiutarsi si contrastano, quindi fra i familiari stessi e fra il familiare e la persona malata, e vediamo che questo cambia tanti. L'obiettivo è proprio che stia meglio il familiare, perché poi di conseguenza sta meglio anche la persona malata perché si trova in un ambiente più sereno. Non so se per lei c'è stato un momento in cui ha detto io questa volta me la ricordo, perché... Sì, beh, diciamo, forse vorrei parlare di quest'altra esperienza che abbiamo anche questa copiata dagli Stati Uniti, nel senso che noi abbiamo cercato di fare, di copiare delle cose che abbiamo visto che funzionano. E oltre a questi corsi dell'associazione NAMI, quello che ci ha colpito tantissimo, che abbiamo visto su internet, poi siamo andate un gruppetto appunto dei soci fondatori negli Stati Uniti, è questo esempio di una riabilitazione con il metodo Clubhouse. Negli Stati Uniti c'è questa associazione che è nata a New York, che si chiama Fountain House, e che è un centro per il recupero, per la riorganizzazione di vita di persone con malattie psichiatriche, tramite proprio il coinvolgere le persone malate come soci di un club. Quindi non sono in questo centro visti come pazienti o utenti, ma come soci che fanno funzionare questa struttura, quindi che riattivano le loro risorse facendo funzionare questo. E proprio qua l'emozione è stata grandissima quando siamo stati proprio in questo centro e abbiamo visto un metodo di trattare queste persone malate completamente diverso da quello che avevamo visto nelle strutture della psichiatria qui in Italia. Quindi diciamo, ho visto poi quando abbiamo aperto nel 2005 questo centro che si è chiamato Club Ithaca, e mia figlia, che pure aveva avuto la fortuna di andare sempre in ufficio con il suo papà, con mio marito, quindi non era mai stata chiusa in casa, però non in questo ufficio non aveva imparato a lavorare, nel senso che non c'era nessuno che l'aveva accompagnata a riprendere delle abilità. Invece quando ha partecipato all'attività di Club Ithaca veramente ha imparato a lavorare. E adesso lavora part time in un ufficio e quindi diciamo ha ricostruito la sua vita nonostante parecchi anni di frattura, proprio in cui sia per arrivare ad essere curata bene, quindi a stare meglio e poi a poter riprendere un'attività. Per ora ci fermiamo qui, ma il tema, se volete, lo possiamo continuare a trattare sulla nostra pagina Facebook Radio 24 la prima volta. La puntata è riascoltabile in podcast. A domenica prossima. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. La prima volta.